Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tassisti, ambulanti, balneari, la protesta a Roma nel giorno del voto sul milleproroghe, la Raggi con gli autisti delle auto bianche in piazza con voi. Omicidio Sara Scazzi, ergastolo confermato in Cassazione per la cugina e la zia, 8 anni allo zio Michele per aver nascosto il cadavere. Gli AD addolorano, ma andiamo avanti, dice Renzi, la minoranza può sconfiggermi ma non eliminarmi, mentre nel PD ancora non si sa cosa farà Emiliano. Riunioni nelle celle frigorifere per evitare le microspie, arrestati comunque 6 appartenenti alla famiglia mafiosa di Alcamo, compreso il capomandamento. 10 anni per il processo di primo grado, altri 9 per l'inizio di quello d'appello e il violentatore di una bambina torna libero per prescrizione. Il giudice si scusa, il ministero annuncia accertamenti. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati all'Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it, invece se ci volete scrivere. In apertura dunque ci occupiamo della protesta dei tassisti ai quali si sono uniti ambulanti e balneari. Sono in piazza Montecitorio, si stanno spostando verso la sede del Partito Democratico. Abbiamo in linea la nostra Alessandra Schepisi che sta seguendo un po' tutte queste proteste. Alessandra, buongiorno, eccoci, vai. Sì, buongiorno, tutti in piazza, come dicevi anche tu, tutti uniti contro il governo, contro la Bolkestein e contro Uber, un sit-in che è partito alle 8 da piazza Montecitorio e che poi si è via via allargata tutta l'area circostante, quindi via del Corso, piazza Colonna. Il traffico naturalmente è andato in tilt e si è vista in piazza, ma solo per una decina di minuti, anche la sindaca Raggi. Siamo con voi, no alle riforme calate dall'alto, ha detto il primo cittadino incontrando una delegazione di tassisti vicino piazza Venezia. Fischi, cori, slogan, qualche scoppio di petardo, tutto però si sta svolgendo in maniera relativamente tranquilla. In realtà adesso la piazza si sta cominciando a svuotare, tra l'altro i tassisti saranno anche davanti al Ministero delle Infrastrutture intorno alle 15. Imponenti comunque le misure di sicurezza tra gli striscioni, il servizio pubblico taxi non è in vendita, proroga sì, stop ai bandi, pronti alla lotta, da qui non ce ne andiamo, sotto accusa in particolare il decreto mille proroga, l'esame della Camera per gli ambulanti, la norma che sposta al 31 dicembre 2018 la scadenza delle concessioni del commercio ambulante. Allora sentiamo le loro voci. In Europa, in Italia, in Spagna ci sono i mercati, gli altri paesi sono tutti furgoncini itineranti. L'Italia è l'unico paese che ha recepito la Bolkestein in questo modo. Mettendo questa legge della Bolkestein, stanno mettendo in repentaglio il nostro lavoro e le nostre famiglie. Mentre nel mirino dei tassisti le norme che, deregolamentando il settore, favorirebbero il noleggio con conducente e servizi di mobilità come Uber. Sentiamoli. Il noleggio da rimessa deve avere una tariffa. Noi camminiamo 50 centesimi ogni 500 metri. Loro fanno camminare un euro e mezzo. Però non è giusto che quello che guarda in faccia, secondo il pollo da spennare, ti chiede quello che vuole. Pensano tutti al valore di questa licenza, però l'importanza è che è comunque un servizio pubblico e l'attacco al servizio pubblico che stanno facendo. Andrebbe preso di petto la situazione, è decisa una volta per tutte, adesso fatto di liberalizzazione. Ricordiamo che intanto i taxi sono fermi in tutta Roma da una settimana, è impossibile trovarne uno, ed ormai è tutto. E grazie dunque Alessandra Schepisi per questo punto. Mille proroghe, si diceva che oltre a contenere delle norme su Uber contiene delle restrizioni su altri fronti. Dunque veniamo a questo, veniamo al fronte istituzionale, ossia l'incontro che ci deve essere questo pomeriggio, sentiamo. A nulla è servito l'appello del governo a fermare la protesta in vista dell'incontro di oggi pomeriggio con i sindacati. Alle 15 al Ministero dei Trasporti il ministro Graziano Del Rio incontrerà tutte le sigle sindacali del settore per ascoltare le ragioni dei tassisti e cominciare a discutere del riordino del settore. La richiesta dell'incontro è arrivata la scorsa settimana dai sindacati dopo l'emendamento Lanzillotta al decreto mille proroghe che regolamenta il settore e, secondo i tassisti, agevola i servizi di noleggio aprendo la strada alle multinazionali del trasporto, come ad esempio Uber. Il provvedimento approvato dal Senato è ora in discussione alla Camera e i tassisti chiedono il ritiro dell'emendamento. Sul fronte politico, Forza Italia tende la mano e propone di ritirare tutti gli emendamenti al decreto mille proroghe se sarà stralciato l'emendamento contestato dai tassisti. Anche il Movimento 5 Stelle, con la sindaca di Roma Virginia Raggi, dice no a una riforma del settore calata dall'alto. Una riforma che si intreccia con la necessità di una politica più ampia dei trasporti, visto che nel decreto mille proroghe alla Camera è stato inserito anche un emendamento che ostacolerebbe sarebbe Flixbus, il servizio autobus low cost. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Andiamo alla cronaca giudiziaria, la sentenza per l'omicidio di Sara Scazzi. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Per mesi finsero di cercare la ragazzina scomparsa, ma invece erano state loro ad uccidere Sara. Ora c'è anche il sigillo della Cassazione a confermare quello che già due sentenze avevano stabilite. Furono Sabrina e Cosima Misseri, cugina e zia della vittima, ad ammazzare nell'agosto 2010 la quindicenne di Avetrana e per questo, per loro, la Suprema Corte ribadisce l'ergastolo. Torna ora però in carcere per 8 anni anche lo zio Michele per aver abbandonato il corpo di Sara Scazzi in un pozzo dove poi lui stesso lo fece ritrovare. Le sue confessioni dopo ripetute ritrattazioni e accuse alla figlia non convincono dunque i giudici né le arringhe di Franco Coppi e degli altri avvocati del suo studio come Roberto Borgogno, convinti che invece sia lui il vero responsabile del delitto e che questo sia un enorme errore giudiziario. Sentiamolo. Rimaniamo profondamente convinti che c'è in questo processo un colpevole fuori dal carcere e due innocenti che stanno scontando una pena ingiusta. C'è il fratello della quindicenne, Claudio, al palazzaccio ad ascoltare il verdetto che ora commenta darà pace a Sara, mentre la mamma è rimasta da Vetrana, il paese del Tarantino, dove ora forse, anche se resta aperto un processo bis sulle omissioni, calerà il sipario su uno dei più mediatici e turbolenti casi di cronaca nera. E per ora è tutto. Grazie dunque a Raffaella Calandra anche per questo aggiornamento. Veniamo alla politica italiana e in primo piano continuano ad esserci le infinite vicende del Partito Democratico. Il punto di oggi, Elisabetta Fiorito, ciao. Ciao Simone, la mia gestione è stata criticata fin dal primo giorno, dice il segretario dimissionario Matteo Renzi. Gli addi sono dolorosi, ma andiamo avanti. A poche ore dalla direzione che sancirà di fatto la scissione della minoranza Dem, rimettiamoci in cammino, assicura Renzi, tutti insieme, perché i motivi di divisione sono poco chiari. E oggi pomeriggio alla direzione non ci saranno né il segretario dimissionario né i bersaniani. Renzi infatti ha deciso di partire per un breve viaggio negli Stati Uniti. C'è attesa per la decisione del governatore della Puglia, Michele Emiliano, che secondo indiscrezioni sarebbe tentato di restare nel PD per sfidare Renzi alla corsa per la segreteria. Per Romano Prodi la scissione è un suicidio, mentre Enrico Letta attacca Renzi. La responsabilità maggiore per la rottura ce l'ha il segretario. Critico anche il governatore della Toscana Rossi. Renzi non mi ha dato nessuna risposta alle nostre idee. Non servirebbe un passo indietro, ma un passo di lato. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Nel frattempo, a Roma, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, si continua a discutere dello stadio. Sul nuovo stadio della Roma a decidere saranno la sindaca Raggi e il consiglio comunale, non i palazzinari. In trasferta nella capitale anche oggi Beppe Grillo torna a parlare della controversa operazione immobiliare che divide i 5 Stelle. L'ex comico assicura che le scelte che verranno prese sull'impianto di Tor di Valle saranno in sintonia con il movimento e con le popolazioni interessate. A Roma abbiamo ereditato una situazione difficile e abbiamo commesso degli errori, ma andiamo avanti, aggiunge poi Grillo. Noi siamo una classe veramente di amministrazioni completamente diverse, facciamo degli errori, assolutamente sì. E qui chi fa un errore chiede scusa, come la sindaca ha chiesto scusa, ma noi andiamo avanti. Sullo stadio domani intanto è in programma un nuovo incontro fra l'amministrazione, la AS Roma e il costruttore Parnasi, una riunione nella quale si parlerà anche del vincolo della soprintendenza sul vecchio ippodromo di Tor di Valle che dovrebbe essere abbattuto per lasciare spazio al nuovo impianto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La polizia di Trapani ha arrestato 6 appartenenti alla famiglia mafiosa di Alcamo. In manette è finito il capo mandamento di Alcamo, Ignazio Melodia. Associazione mafiosa, estorsione e condizionamento delle elezioni comunali sono queste le principali accuse contestate. Al microfono di Katia Caramelli e Fabrizio Mustaro, il dirigente della squadra mobile di Trapani. Sentiamolo. L'attività della famiglia mafiosa veniva decisa al riparo da orecchie indiscrete all'interno di un freezer di un negozio di ortofrutta. Le microspie che siamo riusciti ad installare all'interno di questa cella frigorifera hanno svelato tutti gli affari illeciti della cosca e gli incontri nei quali Ignazio Melodia avanzava pretese estorsive e illustrava l'assetto e le regole interne di Cosa Nostra. Che tipi di affari controllavano? Quali sono le accuse? Ma la specializzazione della famiglia sono le estorsioni, condizionamento delle attività imprenditoriali, ma c'è stato anche un tentativo di condizionamento dell'esercizio del diritto di voto nel comune di Alcamo. Sono arrivate le nomination per i David di Donatello. Fai bei sogni, fiore, indivisibili, la pazza gioia, veloce come il vento. Sono questi i titoli candidati come miglior film alla 61esima edizione dei David di Donatello. Ad annunciarli oggi in diretta dalla Casa del Cinema di Roma, Francesco Castelnuovo e il critico Gianni Canova. La sfida, con ben 17 nomination ciascuno, è tra Indivisibili di Edoardo De Angelis e La pazza gioia di Paolo Virzì. A tallonarli, con 16 candidature, Veloce come il vento di Matteo Rovere, 10 invece le nomination per Fai bei sogni di Marco Bellocchio. Per la miglior regia sono candidati Claudio Giovannesi per Fiore, Matteo Rovere per Veloce come il vento, Marco Bellocchio per Fai bei sogni, Edoardo De Angelis per Indivisibili e Paolo Virzì per La pazza gioia. Doppia candidatura per Valerio Mastandrea come miglior attore protagonista per Fai bei sogni e miglior attore non protagonista per Fiore. Nominato come miglior attore anche Michele Riondino per La ragazza del mondo, Sergio Rubini per La stoffa dei sogni, Toni Servillo per Le confessioni e Stefano Accorsi per Veloce come il vento. Per la miglior attrice a contendersi il premio saranno invece Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, entrambe per La pazza gioia. Poi Daphne Scoccia per Fiore, Angela e Marianna Fontana per Indivisibili e Matilda De Angelis per Veloce come il vento. La consegna dei David a Roma il prossimo 27 marzo negli studios di Via Tiburtina. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di premi, fateci chiudere con un premio che ci riguarda. È il premio Energia Intelligente, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Enea, che vede Radio 24 vincitrice per la categoria Testate Giornalisti. Questo per la trasmissione del nostro Maurizio Melis. Smart City per cosa? Per l'attività continuativa di sensibilizzazione e di promozione di una cultura tesa all'uso efficiente delle risorse energetiche. Premio che è stato assegnato, è stato consegnato questa mattina. Adesso noi ci fermiamo, poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da questa storia veramente incredibile di un processo che è andato avanti per 20 anni sostanzialmente, che ha portato alla prescrizione di un uomo condannato appunto per aver violentato una bambina. Ci occuperemo anche della legge lombarda sulle moschee che dovrebbe iniziare a trovare a breve una applicazione, e poi questa incredibile evasione dal carcere di Sollicciano a Firenze, un buco nel muro, poi si sono calati con il lenzuolo, così come se niente fosse, come se fossimo negli anni 50 o in un fumetto di Topolino. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della protesta di tassisti ai quali si sono uniti ambulanti e balneari nel giorno del voto sul milleproroghe e della sindaca Virginia Raggi che si è unita alla protesta. Ci siamo occupati dell'omicidio Sara Scazzi, è arrivato l'ergastolo in Cassazione, è stato confermato l'ergastolo in Cassazione per la cugina e la zia. Abbiamo parlato del Partito Democratico, delle infinite vicende, così come quelle del PD, dello stadio della Roma, e poi siamo occupati di mafia, infine dei David di Donatello. E adesso nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo in Piemonte tra Alessandria e Torino. Per raccontare questa storia bisogna tornare indietro di una ventina d'anni, quando una bambina di 7 anni viene violentata ripetutamente dal convivente della madre. Succede che questa persona va a processo, ma questo processo evidentemente dura troppo. E succede che ieri arriva la sentenza, la decisione della giudice della Corte d'Appello Paola De Zani, che è costretta a mandare il reato in prescrizione perché così è la legge sostanzialmente, e questa giudice decide di fatto di chiedere scusa pubblicamente, dice chiedo scusa, questo è un caso in cui bisogna chiedere scusa al popolo italiano. La vicenda è raccontata oggi dal quotidiano La Repubblica e il Ministero ha deciso di avviare degli accertamenti su questa vicenda. Saluto Francesco Saluzzo che è il procuratore generale di Torino, buongiorno, buongiorno procuratore, buongiorno. Benvenuto grazie. E grazie per aver accettato il nostro invito. È una vicenda che, devo dire la verità Saluzzo, sconvolge tutti quanti, anche perché il processo di primo grado è durato addirittura 10 anni. E sconvolge anche noi, cioè ci ha sconvolti al punto che io ho chiesto, al di là dell'iniziativa del presidente del collegio di chiedere scusa, ho chiesto al mio avvocato generale, che è il mio vice, anche se ha una definizione strana, di andare anche lui in udienza per esprimere il disagio anche della Procura Generale, non direttamente coinvolta nella gestione del procedimento, ma comunque coinvolta a titolo, diciamo così, collettivo, di responsabilità collettiva in questa vicenda. E il processo di primo grado è durato 10 anni e dalla trasmissione degli atti in Corte d'Appello alla celebrazione dell'udienza di ieri sono passati altri 9 anni, dal 2008 al 2017. 9 anni per il passaggio dalla sentenza di primo grado all'inizio del processo di appello, quindi. Sì. Ma com'è possibile, procuratore? È un tempo inescusabile, se posso usare questa espressione. Fortunatamente l'arrivo del nuovo presidente della Corte d'Appello ha determinato l'avvio di un'opera, diciamo così, sia di ricognizione che di risanamento delle situazioni che erano pendenti. Perché, devo dire la verità, le corti d'appello sono oberate da un carico non solo di arretrato ma anche di sopravvenienza, cioè di fascicoli nuovi che arrivano ogni anno, che è assolutamente ingestibile, ma può essere governato con criteri di priorità, come sta facendo adesso la Corte d'Appello di Torino, e che ha fatto emergere questo fascicolo che altrimenti probabilmente sarebbe rimasto ancora qualche anno in giacenza. Quindi in sostanza un malfunzionamento dell'ufficio, ci sta dicendo? Non è un malfunzionamento dell'ufficio, è probabilmente la mancanza di criteri uniformi e razionali di fissazione dei procedimenti. Comunque su questo so che il Presidente della Corte sta svolgendo anche un'analisi e quindi mentre io sto cercando di verificare anche che cosa è accaduto nella fase di primo grado, soprattutto per quello che mi riguarda con riferimento all'attività di indagine preliminare condotta dal pubblico ministero. E poi 10 anni per il processo di primo grado, e anche questo ha contato evidentemente, no? È una lunghezza enorme, e poi capisce che chiaramente qua stiamo parlando di un crimine particolarmente odioso, procuratore, no? E quindi l'impatto che ha questa vicenda, le vicende sono tantissime, no? La durata dei processi la conosciamo, è un problema storico italiano, ma qua parliamo di un crimine particolarmente odioso e quindi, come dire, la sensazione che lascia è di un amaro in bocca, particolarmente amaro, consenta. No, è particolarmente amaro, anche perché io, riflettendoci, ho pensato che questa bambina è diventata poi adolescente, ragazza, donna, senza avere una risposta da parte dell'amministrazione giudiziaria, da parte dei giudici sulla sua vicenda, perché vorrei ricordare che la vicenda non solo, riaggiungo procuratore, e con un procedimento giudiziario in corso per 20 anni che continuava a ricordarle questa vicenda. Certo, certamente, perché poi ogni tanto veniva citata, veniva convocata, riceveva una notifica, quindi un tormento doppio, triplo. Io infatti ho espresso non solo il mio dispiacere e la necessità di chiedere scusa, ma devo dire la verità, ho anche detto che se incontrassi questa donna, perché ormai sarà una donna, mi verrebbe anche difficile offrirle qualche spiegazione o anche qualche argomento, non dico di consolazione, ma di comprensione della vicenda. La vicenda è difficilmente comprensibile, su questo non c'è dubbio. Il punto è anche questo, procuratore, e secondo me uno snodo importante, e ce lo chiedono anche i nostri ascoltatori e lo fanno regolarmente quando ci occupiamo di queste vicende: ma chi paga per una cosa di questo genere? C'è qualcuno che paga alla fine? Beh, ci saranno degli accertamenti e comunque ci sono anche il Consiglio Superiore e altri organismi che vigilano sull'andamento degli uffici giudiziari, che probabilmente valuteranno la situazione, a cominciare da me. e quindi questa cosa sicuramente verrà analizzata. Il vero problema è che il sistema giudiziario sta affogando e soprattutto la fase d'appello è oggi il vero collo di bottiglia del processo penale italiano. Questo non giustifica la vicenda singola, la vicenda particolare. Qui passiamo da un argomento di dettaglio, nel senso un caso singolo, a un argomento di carattere generale. All'appello si accede in maniera generale e indiscriminata, è una delle garanzie del nostro ordinamento, quindi bene fanno gli avvocati e gli imputati a utilizzarlo, ma si può continuare così, perché continuando così, con i tempi della prescrizione così corti, i processi sono condannati a morte, non dico in culla, ma sicuramente nella fase dello svezzamento. La ringrazio, grazie al procuratore di Torino Saluzzo. Qualche ascoltatore scrive polemicamente, forse anche giustamente, ci dice: certo, c'è chi paga, c'è qualcuno che paga, ed è la ragazza che è andata attraverso tutto questo. Cambiamo decisamente argomento nel ringraziare il procuratore di Torino Saluzzo per essere stato con noi, e ci occupiamo di moschee. Beh, della legge lombarda ci siamo occupati tante volte, è una legge che prevedeva dei criteri più restrittivi per tutti i luoghi di culto, ma sembrava chiaramente indirizzata alle moschee, una legge che è andata incontro alle modifiche da parte della Consulta, poi è stata riapprovata e nel frattempo che cosa ha fatto la Regione Lombardia, guidata da Roberto Maroni, ha mandato sulla base di queste di quel che emerge dalla legge, quello che è contenuto dentro la legge, delle indicazioni ai sindaci su come si devono comportare per gestire proprio i luoghi di culto. Roberto Scanagatti è il sindaco di Monza e presidente di ANCI Lombardia, buongiorno. Buongiorno. Lo diciamo, di centrosinistra, quindi immagino che lei sia piuttosto contrario alla legge in sé, alla legge cosiddetta anti-moschee, no? Sì, ma non perché sono di centrosinistra, ovviamente, semplicemente perché io sono convinto che la libertà di culto è assolutamente un valore fondativo anche del nostro sistema democratico, e dall'altra parte non possiamo accettare supinamente imposizioni che invece hanno più un sapore di carattere ideologico, tra l'altro creando sconfitto. Mi scusi però Scanagatti, io vedo qua, no, lo leggo dalle pagine milanesi del Corriere della Sera, i punti, gli snodi, no, nei quali voi siete coinvolti, e in tutta sincerità, a livello proprio di puro buonsenso, non mi sembra un delirio. Dice che gli approfondimenti dicono che se gli edifici di culto, o meglio, non gli edifici di culto, se questi luoghi di preghiera, no, sono nati dopo la legge e prevedono nel loro statuto finalità religiose o di fatto svolgono funzioni di luoghi di preghiera, vanno equiparati ai luoghi di culto. E qua mi sembra che non ci debba essere particolari problemi. Cioè, se hai un'associazione culturale islamica, ma in realtà è un luogo di preghiera, che venga assimilato a un luogo di culto, mi sembra, no, che non debba essere, certo, un problema particolare. E qua siamo tranquilli. E poi vi impone, però, conto che questo vale per qualunque confessione religiosa, non soltanto per la religione islamica, anche per le confessioni cristiane. Sì. Beh, perché no? L'oratorio è un luogo di culto? Vabbè, l'oratorio di solito è connesso ad una chiesa, no, generalmente, no? Non è detto. Non è detto. Non lo dico perché poi nel concreto noi ci siamo trovati a dover affrontare questo tipo di problemi, noi sindaci. Sì. Nel senso che le posso assicurare che il tema delle moschee è sicuramente un tema importante e presente, ma in questo momento sta investendo alcune realtà, nella maggior parte dei casi città di una certa dimensione. E poi c'è invece, ci sono i 1530 comuni di Lombardia che si trovano tutti i giorni a dover fare i conti con delle norme, con delle regole che in questo caso non fanno altro che creare sconcerto e confusione. Questo non significa non adottare tutti quei provvedimenti che sono necessari per garantire la sicurezza delle nostre comunità. Perché quello che dico, Scanagatti, è che un po' di controllo ci vuole su queste cose. Cioè, non è che possiamo. Sì. No. Siamo i primi a chiederlo. Siamo i primi a chiederlo, ma vanno esercitati nei modi e nelle forme dovute, e non attraverso, diciamo, dei meccanismi che finiscono soltanto per impedire la libera espressione di culto. E questo è il tema vero. Noi siamo per affrontare il problema in maniera diretta e tra l'altro siamo i primi a chiederlo. Diverso è quando si vogliono come dire, promulgare delle leggi che qualche volta hanno un sapore propagandistico che le assicuro alla fine non portano a nessun risultato concreto. Però le ripeto, Scanagatti, qua mi sembra che nella legge lombarda, lo dico molto francamente, che all'inizio sicuramente aveva dei profili di incostituzionalità, come poi è stato dimostrato, no? Nella sua nuova versione alcuni meccanismi di controllo e di attenzione che ci sono per risolvere quello che è un problema concreto. Ricordiamo che la Lombardia, tra l'altro, è la regione che come dire, ha prodotto il maggior numero di foreign fighters italiani, quindi, no, e quindi è comprensibile che si voglia un controllo sui luoghi di culto, in particolare sui luoghi di culto islamici, senza farne una questione razzista, no, semplicemente perché sappiamo che c'è in alcuni ambiti, in particolare appunto in alcune aree della Brianza, in alcune aree del Milanese, c'è comunque, no, qualche imam che incita all'odio, per così dire. Ma proprio per questa ragione non possiamo affrontare la questione dal punto di vista, come dire, urbanistico, perché questa è una legge di carattere urbanistico. Questa è semplicemente una legge che stabilisce che quando si vanno a realizzare nuovi edifici di culto o si vogliono mettere in regola quelli che già esistono, occorre avere delle prescrizioni dal punto di vista edilizio di un certo tipo. Anche questa va benissimo, nessuno dice ed è contrario. Ma altra cosa è esercitare il controllo che è necessario ed è dovuto per evitare che appunto fenomeni come quelli che lei ha richiamato si possano manifestare. Brevemente, Scanagatti, in tre punti, che cosa farebbe lei invece? Beh, da questo punto di vista farei in modo che questi edifici di culto, moschee comprese, vengano realizzate con tutte le caratteristiche ovviamente del caso, e poi però laddove, e quindi per certi versi andrebbero, come dire, non tanto favoriti quanto regolamentati. Dall'altra parte, proprio perché nel momento in cui li ho regolamentati ho anche la possibilità di conoscere esattamente che cosa accade, interverrei in maniera molto diretta laddove invece questi fatti continuano a persistere e evidentemente sono anche fonte, diciamo, di fenomeni come quelli che sono stati richiamati. La ringrazio, grazie Roberto Scanagatti, sindaco di Monza e presidente ANCI Lombardia. Abbiamo sentito la sua voce perché ci interessava anche capire come la vedessero i sindaci. Come sapete, noi pratichiamo spesso il mondo dei sindaci, ci interessava capire come la vedessero loro dal punto di vista dell'applicazione. Questa è l'opinione, lo ripetiamo perché qualche ascoltatore ce lo fa notare, appunto, di un sindaco di centrosinistra, presidente di ANCI Lombardia, e quindi naturalmente la sua opinione. Magari nei prossimi giorni, se lo riterremo opportuno dal punto di vista delle notizie, andremo a sentire anche gli assessori lombardi, perché no? Ci fermiamo, c'è una pausa per la borsa e poi ritorniamo e riprendiamo il nostro giro per l'Italia, e lo riprenderemo con due storie. Una che arriva da Firenze, il carcere di Sollicciano. Ieri questa fuga di tre rapinatori romeni che hanno fatto un buco nel muro, poi sono entrati nel cortile e si sono calati con le lenzuola. Devo dire, francamente, è una cosa che ripeto da Topolino, meglio da Banda Bassotti e quindi da Paperino. E poi la vicenda di San Severo, proprio perché parliamo di criminalità. San Severo in Puglia, tante rapine a commercianti, supermercati. San Severo, tra l'altro, è un luogo complicato perché c'è uno dei tanti ghetti pugliesi nei quali si raccolgono i migranti sottoposti al caporalato e che vanno a raccogliere la frutta e la verdura nelle campagne pugliesi. San Severo, ebbene, il sindaco ha deciso sgravi fiscali per chi subisce una rapina. Parliamo con lui, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli: tassisti, ambulanti e balneari in piazza, la protesta a Roma nel giorno del voto sul milleproroghe, la Raggi con gli autisti delle auto bianche. Omicidio Sara Scazzi, ergastolo confermato in Cassazione per la cugina e la zia, 8 anni allo zio Michele per aver nascosto il cadavere. Gli addi addolorano, ma andiamo avanti. Parole di Renzi sul Partito Democratico: la minoranza può sconfiggermi ma non eliminarmi, e mentre nel PD ancora non si sa cosa farà Michele Emiliano. Riunioni nelle celle frigorifere per evitare le microspie. Restati comunque 6 appartenenti alla famiglia mafiosa di Alcamo, compreso il capo mandamento la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Andiamo dunque a Firenze. Si evade ancora così. È bello che si rispettino le tradizioni. Un buco nel muro e poi ci si cala col lenzuolo dall'altra parte. Siamo al carcere di Sollicciano. Siamo in linea con Eleuterio Greco, che è il coordinatore provinciale Firenze e vice coordinatore regionale Toscana di Wilpa Penitenziaria, che è uno dei sindacati di polizia penitenziaria. Buongiorno Greco, benvenuto. Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, io rido, in realtà non c'è moltissimo da ridere, però fatto sta che questi tre detenuti romeni, che erano dentro, se non erro, per rapina o per furto, insomma, per un reato di questo tipo, sono evasi esattamente in questo modo. Com'è possibile? È possibile in modo più classico, in sostanza. Anche se Sollicciano, diciamo, non è nuovo a questa evasione, dove i cinque albanesi di tanti anni fa ci risiamo altri tre rumeni. È possibile per le precarietà della struttura e l'assenza dei necessari interventi di manutenzione. Per noi sarebbe troppo facile. Dice che i muri sono talmente friabili che si scavano come in un film con un cucchiaino. Diciamo, Sollicciano fa parte dei famosi carceri d'oro, no? Che stiamo parlando di quei carceri fatti con cemento depotenziato, con ferro che non è proprio di quelle, e da questo si aggiunge, diciamo, le precarietà della struttura in termini di interventi di manutenzione. Allora, mi sembra di aver capito, Greco, ce lo conferma, c'era una sola persona per 150 detenuti ieri sera quando sono scappati questi? In quell'occasione c'era una sola persona per 150 detenuti, perché si è attuata, secondo il nostro avviso, in modo scellerato questa vigilanza dinamica senza essere... Cos'è la vigilanza dinamica? La vigilanza dinamica, diciamo, è uno degli elementi, diciamo, che ha portato l'amministrazione penitenziaria, dopo la condanna della CEDU, ad aprire le celle dei detenuti almeno 8 ore al giorno, ma che comunque quella sentenza parlava di riempire quegli spazi di orari con attività. Purtroppo sì, questo su Firenze, Sollicciano, non è avvenuto, perché si è aperto quindi le celle devono stare aperte, devono stare aperte 8 ore al giorno. Almeno 8 ore al giorno, e teoricamente bisognerebbe far sì che i detenuti possano fare una qualche attività, ma questa attività non viene fatta, quindi vengono aperte 8 ore al giorno e girano così, semplicemente c'è una sola persona a controllarli. C'è una sola persona e automaticamente hanno tutto il tempo di studiare modi, tempi e vulnerabilità di una struttura. E ripeto, per noi sarebbe stato troppo facile adesso dire l'avevamo detto, perché l'abbiamo perché l'avete detto reparto, davvero, dice. L'abbiamo detto da settembre, che questo reparto giudiziario non andava aperto senza essere accompagnato dai sistemi di videosorveglianza e di un progetto strutturato di impiego della popolazione di detenuti in attività trattamentali. Non siamo stati ascoltati, l'abbiamo ribadito al sottosegretario Ferri in visita il 6 febbraio, l'abbiamo ridetto al sottosegretario alla giustizia Migliori in visita il 16, che Sollicciano aveva bisogno di un'attenzione maggiore perché c'era un problema di sicurezza. Greco, ma non ci sono nemmeno impianti di videosorveglianza efficaci là a Sollicciano? Non ci sono impianti efficaci che possono in certo senso sostituire quella che è la presenza dell'uomo statico come la sentinella. Sollicciano non ha sentinelle da più di un anno e mezzo. Ci sono però 350 agenti a Sollicciano? No. Operativi, diciamo così. Ma sulla carta ne dovrebbe contare 650. Sì. Questa è un'altra, diciamo, nostra... Di cui 70 negli uffici, ho capito bene? Una settantina sono negli uffici, che purtroppo anche quelle attività sono da necessarie per poter assolvere i compiti istituzionali, e un'altra settantina si occupano delle scorte e delle traduzioni dei detenuti, che alla fine operativamente sulla carta mancano all'appello quasi 200 unità a Sollicciano. Certo. La ringrazio, grazie a Eleuterio Greco della Wilpa Penitenziaria. Noi continuiamo a parlare di criminalità e ci spostiamo a San Severo, in provincia di Foggia. Siamo in linea con il sindaco Francesco Miglio. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a lei. Sgravi fiscali per chi subisce una rapina, ha deciso. Sì, in questo momento di particolare disagio economico e sociale per la nostra realtà cittadina, questo fenomeno criminoso è una mannaia per i nostri commercianti, riteniamo che sia opportuno che l'amministrazione. Ma perché ce ne sono tante? Perché ce ne sono tante i rapine là da voi? E negli ultimi tempi i fenomeni criminosi sono diventati sempre più frequenti e quindi colpiscono sempre di più le attività commerciali che vivono un momento di particolare disorientamento e richiedono attenzione dalle istituzioni preposte alla sicurezza urbana, quindi forze dell'ordine in primis, ma rispetto all'istituzione chiedono anche una forma di sostegno e di solidarietà che credo a questo punto non possa essere più procrastinata. Vabbè, qua abbiamo ascoltatori che noi italiani siamo fantastici, fatta la legge trovato l'inganno, un ascoltatore dice quindi mi faccio rapinare apposta per avere gli sgravi, il sottotitolo è l'unico modo per farsi ridurre le tasse in Italia, e chiaramente assolutamente però, no, non è che può essere uno strumento di abuso per alimentare qualche furbizia, è chiaro che l'idea poi andrà connotata e disegnata proprio per evitare i furbetti o per evitare delle storture, delle strumentalizzazioni. Quindi innanzitutto è necessario in primis che l'esercente sporga denuncia, dopodiché che questa denuncia arrivi anche ad uno sbocco quantomeno a livello di indagine nell'individuazione di un responsabile, cioè è chiaro che ci vogliono tutta una serie di cautele, di contrappesi che possano evitare forme di abuso che sicuramente qualcuno potrebbe immaginare, ma assolutamente non deve essere. Tra l'altro lo ricordiamo, San Severo, ed è per questo che l'avevamo ospitata l'altra volta, sindaco, è uno dei luoghi nei quali ci sono quei cosiddetti ghetti, no? Nei quali si raccolgono i migranti sfruttati dai caporali e che poi vengono portati nei campi a fare i lavori agricoli. Anche là è una situazione da gestire che è piuttosto complessa. Sì, su questo punto in verità non è nel centro urbano, anche se nell'agro del mio comune è abbastanza distante dal centro abitato. Il granghetto cosiddetto oramai è una vergogna, l'amministrazione comunale sta fattivamente Quante persone ci sono là? Quante persone ci sono là? Senta, dipende dai periodi dell'anno, certamente nei periodi estivi, quando c'è la raccolta del pomodoro, si arrivano a numeri anche molto rilevanti. In questo periodo non è la raccolta del pomodoro, non è la stagione estiva, i numeri decrescono notevolmente. Però voglio dire che su questo punto sia l'amministrazione comunale ma anche l'amministrazione regionale hanno trovato un raccordo istituzionale molto forte e io credo che a breve riusciremo a dare dei segnali molto chiari e molto netti rispetto a una problematica che costituisce una vera vergogna. Sì, è una cosa incredibile, lo abbiamo raccontato, è di fatto, e ce ne sono, non è la sola in Italia, ce ne sono altre, è una vera e propria baraccopoli della quale tutte le istituzioni sono a conoscenza, ne siete a conoscenza voi, ne siete a conoscenza la regione, la provincia, lei tra l'altro è presidente della provincia, sì, ne sì. Sono a conoscenza le forze dell'ordine e però là stanno e là rimangono. Sì, è una vergogna che perdura da troppi anni, io con questo concordo con lei, non è una questione che è venuta fuori qualche settimana o qualche mese fa o qualche anno fa, è una situazione che perdura oramai da qualche decennio, e non credo di esagerare se dico qualche decennio. Nel passato si è sempre fatto finta di niente o si è evitato di affrontare il problema, adesso invece credo che sia veramente venuto il momento di intervenire e intervenire con decisione e con determinazione. Ultima domanda, che tasse toglierà ai commercianti che vengono rapinati? Questo è ancora allo studio dell'ufficio tributi del mio comune. Io nelle prossime settimane farò una delibera di indirizzo, un indirizzo politico, in cui chiaramente dirò che voglio sostenere o comunque dare un segnale di vicinanza e di solidarietà a chi subisce questi fenomeni criminosi, dopodiché già nel deliberato andremo a fissare sì. dei punti che possano arginare fenomeni distorti come quelli a cui lei poc'anzi accennava, dopodiché sarà l'ufficio tributi a evidenziare all'organo istituzionale quali sono i tributi che meglio si attagliano a questa situazione. La ringrazio, grazie Francesco Miglio, sindaco di San Severo. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi c'è il nostro Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.